Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Avete preparato la vostra macchina fotografica rigorosamente digitale, anche se magari un po' vintage per qualche ragione, perché ormai vanno di moda le macchine fotografiche digitali, però con l'aspetto di quelle degli anni 50. Il riposo del guerriero sta cominciando, la versione estiva, tante finestre aperte sul mondo della cultura, dei viaggi, della moda, del divertimento, dello spettacolo, e oggi la parola chiave sono le foto ricordo, perché d'estate si scattano fotografie, ma noi vogliamo scattare quelle che riguardano le cose da recuperare, per esempio i film da rivedere, la musica da riascoltare, le città da riscoprire, ma anche i vestiti da non buttare. Questo e altro nel riposo del guerriero in versione estiva. Ho scelto questa canzone di Claudio Baglioni, che è Fotografie, perché trovo che il testo sia molto bello e perché poi le fotografie in effetti raccontano tanto delle nostre vacanze, perché in vacanza si fotografa. Poi c'è Antonio Mancinelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Caporedattore di Marie Claire direbbe: bisogna fotografare tutto l'anno, è vero, ma d'estate no. Ci sono i motivi per poterlo fare. No, diciamo che forse bisognerebbe fotografare meno, comunque... Sì, d'estate si fotografa forse ancora di più e direi che si posta moltissimo, no? Su Facebook, su Instagram, su tutti i social network, un pochino per far vedere dove si è stati. E però la cosa che a me personalmente colpisce, sia come giornalista sia proprio come osservatore della realtà, è che tutti questi, come direbbe Gallarini, devices tecnologici in realtà poi servono a rappresentare delle foto che sembrano vecchie, no? Delle Polaroid, se pensi ad Instagram, sì, a tutti questi trattamenti. Devi tornare con la LOMO, no? Devi fare con una LOMO, per cui questi colori un po' anni 50. Esatto, questo fenomeno, questo macro fenomeno del vintage, del fatto di tornare indietro appunto nel tempo usando delle tecnologie molto moderne, è una delle caratteristiche sicuramente della cultura pop di questi giorni, per cultura pop intendo. Ma perché non la si è vissuta? Molti non l'hanno vissuta affatto, cioè il fatto è questo, che una volta la fotografia andava sviluppata, a parte la Polaroid, e quindi tendevi a fare degli scatti pochi, perché il rollino era 32, 36 pose, o 28, perché anche c'erano quelli più piccoli, e quindi avevi solo quelle foto a disposizione, e quindi cercavi di fotografare proprio quello che era doveroso. Oggi invece, sai, fotografi qualunque cosa. Ci si metteva anche in posa, no? Sì, un pochino più lungo. Esatto. Insomma, quindi... C'era più ricerca, ecco, oggi no, non c'è nessuna ricerca, si fotografa e basta. Ma si fotografa, però tutto sommato in generale, sei un po' severo, insomma, trovo che sì, c'è questa voglia sostanzialmente di documentare la propria realtà al mondo. Allora, le nuove macchine fotografiche non solo inquadrano, ma leggono anche, sì, fanno 5 foto contemporaneamente. Fanno anche il caffè, no. E quindi sì, no, è vero. Allora, ci sono alcune nuove macchine fotografiche, fanno 5 foto all'istante, contemporaneamente. Grazie, Gallarini. Di ogni foto sceglie la faccia migliore, quando tu prendi un gruppo di persone, di ognuno, e le mischia in modo da fare a realizzare una foto sola con solo le facce migliori delle persone fotografate. Voi ti non rendi potete conto? Vederlo, ma in questo momento Gallarini non ha la sua faccia migliore ha questa faccia anche leggermente scandalizzata. No, e ma mi fa ridere a pensare che io viva nel Mesozoico, perché tu pensavi perché prima tu hai detto ci si metteva in posa, oggi non serve neanche mettersi in posa, perché comunque anche se non sei in posa, la macchina fotografica fa in modo che tu lo sia, è questo che dicevo semplicemente. Ma perché, ecco, ti potrei dire, così ti sconvolgo nella mia modernità, che sì, vivendo in una società dell'immagine tendiamo a dare di noi, di quello che mangiamo, pensa il a tutta la gente che posta il cibo su Twitter, che cosa che trovo, sì, allucinante. E appunto si tende a dare meglio di se stessi, per cui ad esempio Facebook sta diventando una specie di vetrina, no, personale, dove uno mette le foto dove sembra bellissimo. E quindi vivendo appunto in società, pensa anche a tutto il fenomeno dei Tumblr, no? Questi blog per immagini dove veramente si scelgono le foto più belle, o comunque c'è una grande attenzione all'immagine, proprio perché è questo forse, no? Infatti stiamo parlando, è uno delle nuove chiavi della cultura contemporanea. Ecco, torneremo poi proprio sul vintage per quanto riguarda la moda dopo gli aggiornamenti sul traffico. Le foto ricordo è l'argomento, tema del riposo del Corriere di questa settimana, la versione estiva. C'è sempre Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire, qui in mia compagnia per questi 10 minuti ancora, per capire che cosa possiamo tirar fuori dai cassetti delle nostre mamme, delle nostre nonne, nonni, eccetera, e fare in modo che questi vestiti, questo abbigliamento sia ancora piacevole da indossare e anche di moda, perché no? Ma assolutamente, innanzitutto una brevissima premessa: il fenomeno del vintage è un fenomeno che potrebbe dire in realtà vintage, perché ne avevamo parlato, è un termine francese. Ma l'avevi già bacchettato su questa cosa? Perché è un termine francese che deriva addirittura dalla cultura enologica, quella dei vini. Comunque, a parte questo, è un fenomeno estremamente interessante, estremamente importante, che si è sviluppato negli ultimi anni e che poi ha avuto appunto nel... in quello che poi noi chiamiamo cultura pop, ma che poi in realtà è la vita di tutti i giorni, una grandissima influenza, per cui appunto abbiamo citato Instagram, però mi veniva in mente mentre parlavamo anche il fatto che un artista sempre molto attenta a quello che succede nel mondo, come può essere Madonna, abbia fatto un film su Wallis Simpson, Edoardo VII, quindi una storia d'amore assolutamente struggente. Come quando abbiamo parlato anche di conservatorismo e di un certo tipo di ritorno appunto a un amore romantico, sicuramente il vintage. Pensate a un serial di grandissimo successo come può essere stato Mad Men, che ha veramente imposto una estetica che non era neanche quella delle nostre mamme, era quella delle nostre nonne, quindi quella degli anni 50, quindi quella di, pensate a quelli che sono chiamati hipster, no? I ragazzini molto alla moda, con tutti gli occhialoni di plastica nera, sembrano un po' tutti Clark Kent, c'è comunque la cravattina stretta, un po' anni 60, un po' Beatles, le ragazze con la gonna a ruota, quindi... si può pescare moltissimo, anzi si deve pescare moltissimo, proprio perché c'è nell'aria non tanto una grande una forma di nostalgia, quanto un desiderio di tornare, secondo me, a un periodo della società in cui si pensava al futuro come sicuramente a un periodo migliore da vivere. E quindi è quella cosa lì, è quel sentimento, no? Quando si dice nostalgia del futuro, probabilmente abbiamo tutti nostalgia di un tempo in cui il futuro sarebbe stato sicuramente migliore. Così non è stato, e quindi paradossalmente, ma non tanto, si torna a cercare un certo tipo di estetica che produca anche quel tipo di compostezza, di sensazione, esatto, appunto Mad Men, ma penso anche a Mildred Pierce, che è un altro bellissimo serial televisivo, e quindi con tutta una serie di riferimenti al passato che poi addirittura arrivano anche alla mitologia, no? Penso a certi film che abbiamo visto recentemente. Quindi c'è sicuramente un attaccamento al passato che diventa assolutamente contemporaneo. Ecco Antonio, adesso tu hai fatto riferimento agli anni 60 fondamentalmente, sì, al boom economico, quindi allora c'è qualcosa invece degli anni 70 e 80 che possiamo recuperare, oppure trovi che quella sia una moda che è meglio lasciare ancora nel cassetto per un po'? Non lo so. Qui come sempre cadiamo nel personale. No, gli anni 80 stanno tornando moltissimo, soprattutto per il prossimo inverno. Abbiamo visto delle cose che credevo ormai fossero state sepolte o mangiate alle tarme, invece sono tornate, come le grandi spalle sia per uomo che per donna, come i giubbottoni. No, aspetta, intendi anni dire 80, scusami, anni 80. Intendi dire le spalline nelle le camicette? Spalline, no, nelle camicette no, ma nelle giacche sì. E quindi una donna in carriera, queste, c'è stato, non so se posso fare dei nomi, come no, un grandissimo secondo me stilista che si chiama Nicola Ghesquière, che di adesso disegna Balenciaga, che ha dedicato tutta la sua sfilata a una ipotetica figura di segretaria che vive in un futuro, sì, e quindi erano sostanzialmente, insomma, delle donne in carriera, quindi stanno tornando moltissimo, che poi stiano bene, questo è un altro paio ma di ma anche maniche. Con i capelli cotonati alla Farrah Fawcett o quelli invece no, alla Melanie Griffith per capire in Una donna in Corea, no, ecco, su quello invece, come dire, sarei un pochino più stare un po' sul semplice. E gli anni 70 sostanzialmente, parliamoci molto chiaramente, non sono mai passati di moda, perché comunque continuano ancora adesso in tutte le loro possibili accezioni, quindi la parte più beat, la parte più borghese, la parte più, per esempio, non so, tantissime collezioni che abbiamo visto, era tutto quell'aspetto degli anni 70, un po' Luchino Visconti, Gruppo di Famiglia Un Interno, quindi come dire, questa eleganza borghese un po' decadente, perché sono state sicuramente una decade tanto tormentata, che era tanto al contrario degli hippies, quindi. Che è tanto gli hippies, ma che era contemporanea, sì, certo. Quindi, come dire, sono, come direbbe sempre Gallarini, sono molto exploited, cioè, no, sono, cioè, non, molto... non lo direi perché non mi viene anche agli anni 70 è stata una decade che è molto molto sfruttata ancora adesso da tutti quanti i designer e gli stilisti. Non a caso noi stiamo parlando da Milano, e a Milano per tutta l'estate c'è una mostra che Addio si chiama anni 70, Addio anni 70 ed anche. È veramente molto molto interessante, proprio perché dimostra come in nuce, come in germe, già ci fossero degli elementi che poi sono cresciuti, dei semi che poi sono sbocciati nella cultura degli anni 80, ma addirittura anche quella successiva, anche quella degli anni 90. Allora, visto che siamo in periodi di ristrettezze economiche, sì, è meglio così usare appunto i vestiti della mamma, della nonna, del papà, eccetera, tiriamo i fogli dai cassetti. Che cosa invece lasciamo proprio nei cassetti? Perché... ma io direi che paradossalmente, questo non lo dico io, lo dicono anche i sociologi, noi avvertiamo come estremamente vecchio non quello che è passato 30-40 anni fa, ma quello che è appena passato. Quindi magari certe esagerazioni, non dico dell'estate scorsa, ma di due estati fa, che potevano essere colori fluo, quest'anno c'è stato, pensate, ecco, a proposito di vintage, al successo mediatico di una vera icona, oserei dire, talvolta anche erotica, come può essere stata Elisabetta, regina Elisabetta alle Olimpiadi, con i suoi colori pastello, la presentazione alle Olimpiadi con lei che precipitava dal paracadute era fantastica, sì. E in qualche modo veramente lei sta diventando un'icona assolutamente forte e contemporanea. Io recentemente ho intervistato Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, che sono i due designer di Valentino, sì, che hanno detto: il nostro sogno non è vestire Lady Gaga, ma è vestire la regina Elisabetta. Poi non potranno farlo, però ecco, c'è anche questo. Quindi io direi che forse proprio tutte le cose che andavano di moda fino a due anni fa è meglio lasciarle decantare, no? Io non dico di buttare niente, proprio perché, come giustamente dici tu, stiamo in ristrettezze economiche, ma ecco, magari recuperare quello che c'era molto prima, perché quello che è appena passato è veramente forse quello che ci stanca un pochino di più, insomma. Un po' perché ce lo ricordiamo anche, no? In un qualche modo, lo... quindi sembra proprio vecchio, sì, cioè che non ha la valenza, sì, di vintage. Sì, e poi ti stanca comunque, quindi secondo me, appunto, io faccio questo esempio tra tutti, appunto, i colori fluorescenti, perché sembravamo tutti un pochino dei lavoratori dell'ANAS, forse è meglio lasciarli perdere. Hai citato, insomma, la regina, sì, mi viene in mente Pippa. Che cos'è che piace secondo te di lei? Ma non so se in questo momento si tifi ancora molto per Pippa. In realtà, secondo me, in questo momento storico, proprio, sì, adesso, sì, agosto 2012, forse è Kate quella che sta alla lunga vincendo. Di Pippa piaceva, senza fare, come dire, stupidi giochi di parole, una sorta, no, di disinvolta simpatia, di sicuramente. Però poi, leggendo anche i giornali inglesi e vedendo anche come si sta comportando Kate, cioè in maniera molto educata, cioè sempre non sbaglia mai una virgola, non è mai fuori posto, non dà assolutamente nessun tipo di gancio ai tabloid inglesi. In questo momento sono veramente molto affamati, cattivi, sì, affamati, certo, sulla di mancanza di fame, sì, pare, del devono principe trovare, William. Devono trovare qualcosa. Esatto, credo che Pippa, tutto sommato, in questo momento stia un pochino arrancando, ma sicuramente grazie anche alle sue forme ritroverà una scena e dei riflettori sotto. Comunque anche in questo senso un po' il ritorno al passato che, sì, piace, cioè l'eleganza, l'educazione, sì, che ormai così abbiamo un po' dimenticato sotto certi aspetti, invece recuperare la sobrietà. E come giustamente però dici tu, siccome c'è gente che non ha mai vissuto, no, questi anni, cioè, per fortuna, voglio dire, continuiamo a fare figlie, viene percepita come una novità assolutamente esplosiva, deflagrante. Meno male che c'è, ecco. Meno male che c'è, siamo, ecco, contenti. Per cui, non so, ritornare a essere galanti per chi è nato nel 91 non è un ritorno, è una novità di grande freschezza, di grande rilievo, quindi tutto sommato, perché no? E questo ci piace. Grazie Antonio Mancinelli. Grazie. Ci sentiamo domenica prossima. È arrivato il momento di parlare con Alessandra Tedesco e di libri. Ciao Alessandra, ben tornata nel riposo Ciao del guerriero. Tutti. Oggi le fotoricordo è il tema della puntata, quindi insomma qualcosa che poi rimane, no? Qualcosa che ci ricorda il passato quando le scattiamo in quel momento, poi le riveliamo negli anni e ci ricordano tanti momenti. E anche i libri a volte funzionano così: li compri, poi magari non riesci a leggerli per qualche ragione e poi li leggi e ti ricordi dove li hai comprati e ti vengono in mente tante certo. cose. Io ti proporrei una foto letteraria, sì. Vediamo se indovini. Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia. Di che cosa sto parlando? Difficilissimo. Questa è proprio una fotografia che arriva dal passato remoto. E non solo, anche il tuo libro arriva dal passato remoto, a quanto sì, pare. Sì, io ho in mano questo... Quella carta gialla. Ingiallita, ecco. La copertina è verde, è Arnoldo Mondadori editore, Vladimir Nabokov, Lolita, i grandi narratori d'ogni paese, questa era la collana e questo libro è del 61, io ho l'edizione del 61 ed era di un mio zio Giovanni, di cui ho già parlato in questa trasmissione. L'ho trovato nella vecchia casa di mia nonna e leggere Lolita con queste macchie, vedi, di caffè, sì. eccetera, varie cose che ci sono dentro. Mancano le orecchie, perché allora forse tuo zio usava il segnalibro. Per fortuna, sì, perché io detesto le orecchie, cioè sì. proprio bisogna avere assolutamente il segnalibro. Concordo. Assolutamente, cioè proprio, no, un libro con le orecchie no. Io ho comprato da ragazzina tanti libri usati, mi piaceva moltissimo perché trovavo le scritte, per esempio, gli sì. appunti delle altre persone ed è bellissimo perché è tutto un altro mondo, ma se trovavo un libro usato con le orecchie non lo compravo. Ecco. Cioè, vabbè, ognuno sa. Ognuno c'ha le sue, giustamente. Ognuno c'ha le sue. Comunque anche a me dà fastidio. E Lolita è un classico di Nabokov, io l'ho letto un bel po' di tempo fa, mi è piaciuto tanto, va inquadrato in quel periodo sì. storico perché ha rappresentato veramente una rivoluzione. Tra l'altro quest'anno sono stata a San Pietroburgo alla casa di Nabokov, che è bellissima, cioè c'è tutta la sua collezione vecchia di farfalle, perché lui appunto era appassionato di insetti e catturava le farfalle realmente e aveva tutta la classica collezione di farfalle. Sì, che non era una scusa in questo caso. Non era una scusa, ma era vero, poi ci sono molte foto vecchie, insomma, della sua epoca, la scrivania, insomma, è una bellissima emozione vedere la casa di uno scrittore a distanza di tantissimi anni. E lì secondo me rimane ancora adesso un romanzo, ecco, un classico, uno di quei classici non pesanti, diciamo così. Guerra e pace d'estate magari un no. po' più, come dire. Però... Lolita sotto l'ombrellone si può leggere. Non vi vedete il film, leggetevi il libro prima e magari poi vi guardate anche il film, come sempre. Poi dal mio passato, visto sì. che queste foto vecchie, ho ripescato, credo fosse lì, il primo romanzo di Amélie Nothomb, la scrittrice belga, attenzione, non francese, come dice sempre, come diceva anche Poirot, no? Io sono belga, sì, sì, non francese, certo. Spesso la confondono per francese, che devo dire a me piace molto la Nothomb. Ultimamente, insomma, ha fatto, secondo me, qualche scivolone dei libri. Lei pubblica un libro l'anno, quindi, insomma, non tutto può essere bello. Sono sempre libri corti, quindi quanto meno non abbiamo sprecato tanto tempo, ecco. Però Stupore e Tremori è veramente bello. Parla della sua esperienza in Giappone, perché lei appunto è belga, però ha passato tantissimo tempo, è nata in Giappone, è passata tantissimo tempo in Giappone e si vede proprio la differenza delle culture sul posto di lavoro, nella vita personale. È veramente un bel romanzo. Portatelo al mattino in piscina o al mare, alla sera l'avete finito. Assolutamente sì. Quante pagine sono? Okay. Guarda, ce l'ho qua davanti. Ma poi a me, ho visto 117, anche scritto grande. si dice. Poi allora peschiamo, allora ne ho qua tre davanti. Che cosa peschiamo prima? Peschiamo Adam Thirlwell, Politics, pubblicato da Guanda, un libro del, vediamo, sarà stato 2004 forse, 2003 addirittura, vedi, la mia memoria non mi inganna. Un libro di cui avevo accennato forse sì. in qualche puntata scorsa, perché altro che 50 sfumature di grigio. È molto cioè, erotico. È veramente molto erotico. Pensa che quando io, è una sex comedy, mettiamola così, sì. quando io lo leggevo in metropolitana, ogni tanto chiudevo lentamente il libro perché, sai, vi vicini di metropolitana. Avevi paura che leggessero? Sì, sì, delle... sì, guardano sempre, certo, che cosa stai leggendo. Io mi imbarazzavo un pochino, però è veramente, veramente un bel libro, ve lo consiglio. Hai imparato qualcosa? Sapevo già tutto. Beata a te. Si dice sempre così, no? E poi, che scegliamo prima? Scegliamo lui. Allora, questo autore nordico, non mi ricordo se è norvegese, dovrebbe essere John Arstad, che ne è stato di te Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, pubblicato da Iperborea, forse lo ricorderete, è l'uomo che per secondo ha messo piede sulla Luna. Tutti si ricordano di Armstrong, ma nessuno si è mai filato Buzz Aldrin. E questo titolo ha un significato, perché in questo romanzo si parla delle persone che arrivano sempre seconde nella vita, e però sono contente di essere seconde. La storia di un ragazzo, appunto, che è sempre secondo nelle cose, non vuole mai stare in prima fila, si accontenta appunto dell'ultima o della seconda. E bello, l'ho trovato veramente molto diverso da come appunto la penso su tante cose, ma molto stimolante. Un romanzo Iperborea, insomma, che trovate ancora. Il formato Iperborea è un pochino scomodo, lo ricordiamo, sono quei libri un pochino stretti, però ragazzi è così, e quindi bisogna è una scelta dell'editore. È stata una scelta dell'editore vincente, perché è assolutamente riconoscibile. Iperborea, letteratura nordica, traducono tutta la letteratura nordica in quel formato lì. A me non piace tantissimo nella lettura, però il libro è veramente bello. Io so perché non piace tanto a tedesco quel formato lì, perché sei costretta ad aprirlo, sì, e si rischia di spaginarlo. Io già ti ho capita, guarda. Già, ecco, capito. Sì, sì, sì. A Bari si direbbe ti conosco vecchia. E per ultimo ho scelto Francesco Piccolo, perché io lo adoro. Francesco Piccolo l'ho conosciuto come libro prima con La separazione del maschio, pubblicata da Einaudi. È un libro che consiglio sempre, quindi forse mi avete già sentito dire questa cosa, Pazienza, Repetita Juvent. È un meraviglioso romanzo che sostituisce tutti i saggi sulle diversità uomo-donna nei sentimenti. Ti fa capire tutto, e te lo fa capire ridendo, e anche se sei donna finisci per dare ragione a lui, bastardo, nel libro, perché te la racconta in maniera così carina che dici ma forse c'ha ragione lui. Francesco Piccolo, La separazione del maschio. Ma di Piccolo volevo soprattutto segnalare per l'estate, sì, momenti di trascurabile felicità, sì, perché se ne leggono a pezzettini, anche magari mentre sei in treno, in aereo. Avevo così citato anche in una delle puntate del Riposo del Guerriero di qualche settimana fa. Ricordo perfettamente, avevate segnalato anche Valerio Millefoglie, che è un altro bel libro appunto sul senso della felicità e della perdita. E, pubblicato da Einaudi, se non erro, e veramente Piccolo per me è un idolo. Quando l'ho conosciuto qualche mese fa, solo, perché prima ci eravamo sentiti solo per telefono, gli ho detto: senti, posso fare una cosa proprio da fan, io sono una giornalista, però ti voglio abbracciare. E quindi ho abbracciato Francesco Piccolo, lui ha iniziato a ridere ovviamente, ho detto: senti, io in questo momento sono una fan, non sono una giornalista. E quindi abbiamo chiacchierato. Si può essere entrambe le cose, poi, voglio dire. Sì, però insomma non è carino quando sei per cosa di lavoro, insomma, andare lì e fare la faccia da Dio, da fan sfegatata, insomma. Dovresti mantenere un minimo di equilibrio, di aplomb british da Radio 24. E invece io ho detto: no, ti prego, ti voglio abbracciare. Grazie al cielo esistono i sentimenti, Alessandra. E tra l'altro invece volevo ricordare una cosa: siccome d'estate, appunto, dicevo, le librerie Reminders si frequentano abitualmente, perché a volte non sai che cosa fare, passeggi e ci entri, no? E cominci a guardare, cosa che durante l'anno non fai mai, a meno che tu non sia un grande appassionato di lettura, però in generale questa è una cosa che si fa molto d'estate. Sì, sì. E compri anche i classici che ti sei sempre ripromesso di leggere. Mai? Io volevo, è venuta in mente una cosa: ci sono dei libri che ormai non vengono assolutamente più pubblicati, quindi si trovano soltanto nelle Reminders, che sono i libri game che ebbero successo negli anni '80. Chiaramente non parliamo di letteratura assolutamente, sono libretti che consiglia a un pubblico molto giovane, ma che vuole anche un po' divertirsi. Sono dei libri che raccontano delle storie, possono essere delle storie poliziesche, delle storie mitologiche, storie che comunque abbiano a che fare con l'avventura in generale, e a un certo punto punto del racconto esistono sempre uno o più bivi e quindi tu, protagonista del racconto, devi scegliere che cosa fare. In base alla tua scelta sei invitato a leggere, a continuare il racconto da un'altra parte e quindi il racconto cambia ogni volta, cambiano i finali, cambia la tua, puoi morire, puoi continuare, puoi non risolverlo, puoi risolverlo in un modo diverso. Ma spesso molti scrittori scrivono più finali per i romanzi, poi la casa editrice decide qual è meglio, editor, no? Mi ricordo è uscito un articolo un po' di tempo fa, un mesetto fa, sul finale di Addio alle armi di Hemingway, che insomma c'erano diverse possibilità di conclusione. E poi insomma alla fine viene scelto quello che l'editore ritiene migliore. C'è un po' un braccio di ferro in questo sempre. Senso. Però diciamo, in questo senso invece i libri hanno appunto volutamente finali diversi, quindi lo stesso libro può essere letto più volte. È un gioco molto divertente da fare, anche in compagnia se si vuole. Lupo Solitario è stata la prima serie, poi ce ne sono stati molti altri, li trovate sono nelle librerie rimanze, ma vi consiglio di averne almeno uno da provare. Quando riuscirò ad andare in ferie, allora li cercherò sui banchetti. Perché questa cosa è meravigliosa. Te non li la presto, io ne ho anche tantissimi, per cui è possibile assolutamente recuperarli. Grazie Alessandro Tedesco, ci vediamo la settimana prossima, perché ci sarà un momento importante, la puntata sarà dedicata ai personaggi e quindi racconteremo degli scrittori che sono diventati in qualche modo famosi, ma magari il loro malgrado, perché sono riusciti a vincere dei premi importanti. Nelle nostre parole dell'estate, oggi è la volta delle foto ricordo che non possono assolutamente mancare. Marta Cagnola, ciao, bentornata. Buongiorno, ma capita solo a me che più che le foto siano le musiche a ricordarmi? No, le musiche ricordano sempre tanto, ricordano i momenti, io spesso ricordo quando è stata la prima volta dell'ascolto di una canzone che poi mi è rimasta nel cuore o dov'ero in quel momento o in uno dei momenti in cui l'avevo ascoltata. Io ho sempre le canzoni dell'estate, anche nel mio iPod, classificate per estate e anno, perché mi ricordano i bei momenti, le vacanze, ancora più delle fotografie. Ma tu ti affezioni alle canzoni dell'estate, proprio a quei tormentoni estivi? No, ne ho di miei privati e personali. Ecco, quelli sì, sono un'altra cosa, il tuo tormentone i miei. Ci sta. Però è anche vero che ormai quando guardi delle fotografie, soprattutto se scattate in digitale, ormai le accompagni automaticamente con delle canzoni, con delle musiche, anche perché i programmi lo fanno quasi in automatico. Sì, ormai sì. Di conseguenza le due cose si associano sempre, no? L'immagine ha un sottofondo. Sono d'accordo, infatti stavo pensando, io ho scelto alcuni album per questo nostro appuntamento, abbiamo anche nelle scorse settimane pensato a un po' di film da rivedere, serie da rivedere, e quindi sono andata a cercare un po' di album da riascoltare della scorsa stagione musicale, così magari possiamo recuperare qualcosa che abbiamo perso. Non è stato facile, perché secondo me sono uscite tante cose, insomma, così, un po' per categorie. Io ho pensato intanto alla musica d'autore. Allora, anche lì ho una fotografia di un viaggio in campagna. Sì. Sono andata nelle Langhe a trovare un cantautore che lì abita, un cantautore molto amato e del quale si dice sempre ex ferroviere. È vero, Gian Maria Testa, lui è bravissimo, è più famoso forse in Francia che in Italia. In Italia è ancora un po' un cantautore di nicchia, però devo dire che se qualcuno si fosse perso il suo Vita Mia, che è l'album di quest'anno, secondo me si è perso un grande album, quindi c'è sempre tempo per scaricarlo e per riascoltarlo. Ricordo molto bene quell'intervista, fra l'altro. Io ero molto felice di incontrarlo. È una persona davvero piacevole. Poi da quelle parti si beve molto bene. Giuro che però l'intervista è stata fatta in totale sobrietà. Poi che cosa usiamo come sottofondo le nostre foto? O semplicemente anche all'ascolto? Ecco. Allora, io direi che possiamo concederci anche qualcosa di mainstream, qualcosa di da classifica, non facciamo solo quelli appassionati alla musica d'autore, a me piace tutto. E quindi direi che l'album che mi ha maggiormente convinto tra quelli da classifica di quest'anno è La teoria dei colori di Cesare Cremonini. Sì. Anche qui una mia fotografia, vabbè, insomma, l'incontro con Cesare Cremonini per l'album, sicuramente nella sua casa discografica, ma anche Cesare Cremonini al Festival del Cinema di Roma, perché lui quest'anno ha fatto anche l'attore, e quindi insomma un bell'anno per Cesare Cremonini. Devo dire che la teoria dei colori mi è piaciuta perché lui è davvero cresciuto, è stato molto attento ai testi, alle musiche, agli arrangiamenti. Già da un po', perché lui comunque questo cambiamento è un po' di anni che lo sta macinando, e adesso tu dici è arrivato proprio. Secondo me lui dice un momento di non essere, bella maturità. Sì, lui dice di essere un maniaco e quindi non è mai contento, però devo dire che secondo me è arrivato a un buon punto. Poi è un bellissimo oggetto il disco della teoria dei colori, e io sono molto affezionata ancora ai dischi come oggetti. Sì. Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male che non ho fatto il militare. Sì, meno male, sai che risate. C'è chi non conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, chi si veste da soldato a carnevale. Io mi nascondo tra la gente, sia carnevale. Non so che fare tu, vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male, non so dirti una parola, non ho niente di speciale, se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio ride ma ti piange il cuore, sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata. Poi Andrea Napoli. Come si fa senza un po' di Napoli? No, scherzi a parte. Il premio Tenco, che è il premio della musica d'autore, che quest'anno si terrà purtroppo in una sera sola a Sanremo il 17 novembre, prevede alcune categorie, e c'è il miglior interprete maschile, femminile, la miglior opera prima, ma c'è anche il miglior disco in dialetto. Il miglior disco in dialetto, secondo me, quest'anno io ho già annunciato che voterò assolutamente per questo disco, è Black Tarantella di Enzo Avitabile. Un disco davvero bello, è passato un po' in sordina, un po' sottotono, secondo me vale la pena recuperarlo. E ancora tempo, tempo ancora, e ancora tempo. Ma l'acqua è sole. E ancora tempo, tempo, fortunatamente. E ancora tempo, oh siete. E coccoluna te va bene e basta. E qualche cosa muore ma resta. E ancora tempo. E ancora tempo. Rindo cor. E ancora tempo. Amare dolce. Possiede. E ancora tempo, tempo, russe ser. E ancora tempo. E coccoluno te va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. E qualche cosa muore ma resta un bello giorno. E qualcuno te va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. e qualche cosa mora ma resta un bello giorno. Eccolo qui, questo era Enzo Avitabile, Black Tarantella. A me davvero è piaciuto tanto. Allora, abbiamo parlato di musica d'autore, musica più mainstream, miglior disco in dialetto, la categoria da Tenco, però sempre il cosa Tenco manca? Parla anche di miglior esordiente. Allora io direi miglior esordiente, e non solo perché è bravo, bello, intelligente, è un ragazzo davvero in gamba, Marco Guazzone. In molti l'avranno visto al Festival di Sanremo, lui si è presentato da solo, in realtà è il frontman di un gruppo che si chiama Stag. Un esordiente che però ha già fatto moltissime esperienze, è diplomato al conservatorio e anche in musica dal film, ha studiato musica da film al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha aperto molti concerti importanti negli anni passati. Adesso hanno pubblicato Marco e gli Stag il primo album, che si chiama L'Atlante dei Pensieri. Secondo me è da tenere presente questo ragazzo, perché ci darà delle soddisfazioni. È uno che secondo me va riascoltato e va scoperto, perché tra qualche anno magari potremo dire: ah, io mi sono accorta subito di quanto era bravo. Grazie Marta Cagnola, ci vediamo la settimana prossima. Versione estiva del Riposo del Guerriero, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. È il momento della nostra glottologa Francesca Dragotto. Ciao Francesca. Buongiorno Stefano, come è trascorso il Ferragosto? Allora, bene come sempre, ma sul lago. Ecco, quindi né mare né montagna, ma lago, con tanto di grigliata, perché lì la facevano tutti, e anche se non avessi voluto farla avrei sentito i profumi, gli aromi dei dirimpettai e non avrei potuto sicuramente esimermi, e quindi l'ho fatta anch'io. Allora, Francesca, le parole dell'estate, ce ne sono tante, le avevamo citate anche nel corso della prima, del primo appuntamento con te della versione estiva del Riposo del Guerriero. Da dove partiamo oggi? Ma vogliamo partire da Canicola? Da Canicola, che sarebbe quel caldo un po' afoso, no? Credo, sì. È questo, si intende o no? Mi sbaglio. Perché poi quelle parole lì sono sempre un po' borderline, ognuno le interpreta un po' a suo modo, no? Ma il significato è sicuramente quello che hai detto. Il fatto che vengano interpretate in maniera differente è legato all'azione del parlante, che tende ad analizzare la parola che non riesce a capire, riconducendola alle cose che conosce meglio. Sì. In questo caso, a dispetto di quello che si potrebbe credere, uno vede Canicola e dice: c'è dentro il cane. No, figurati, no. Non è possibile, il cane c'è veramente. No, non è vero, è vero, ti assicuro. L'etimo ha a che fare con il cane, in particolar modo con la stella di Sirio nella costellazione del cane maggiore, che è detta, esatto, che è detta stella canicolare. Quindi l'etimo è rigorosamente da cane. Quindi vuol dire che quando quella costellazione era visibile in cielo significava un periodo di caldo, giusto? Non so, immagino che potesse essere così. È quando il sole si trova nella costellazione. Sì, sì. Come nel periodo zodiaco. Esattamente, nel periodo che va, mi sono documentata, perché io per quanto riguarda lo zodiaco sono veramente una frana, non so neanche quale sia l'esatta successione dei segni zodiacali, quindi sono dovuta andare proprio pedissequamente a prendere gli appunti. Nel periodo che va dal 24 luglio al 26 agosto il sole si trova nella costellazione del cane maggiore, e in quei giorni il caldo è massimo, di conseguenza Canicola o Canicula, nella secondo insomma la forma italiana antica, indica appunto i giorni di maggior caldo dell'estate. Meno utilizzato, ma non per questo meno esatto, anzi potremmo anche rinnovellarlo, potremmo rimetterlo in uso, è il verbo canicoleggiare, che trovo molto bello invece, e che significa ardere, essere caldissimo, e che chissà, magari potremmo utilizzare anche in senso metaforico. Mi ridici le date della costellazione famosa, ecco, del cane? 24 luglio, 26 agosto. Ecco, che più o meno corrispondono al segno del leone, fra l'altro. Oh, quindi, mi hai anticipato la parola successiva. Eccola là, vedi, perché? Avevo ragione. Perché mentre facevo questa ricerca sul cane, perché il cane ce lo vedevo, cioè anche dal punto di vista morfologico, la forma si spiegava bene, però dicevo il cane che c'entra, fino a che non ho ragionato sulla costellazione, mi sono detta: ma chissà quali sono gli altri animali che possono essere utilizzati in riferimento a condizioni climatiche, e ovviamente mi è venuto alla mente il leone. Il leone, che è alla base di un'altra parola che viene utilizzata per indicare un caldo insopportabile, e che è la parola solleone. Ah, è vero. Sì, e ancora una volta parliamo di costellazioni. Questa volta ci riferiamo al periodo compreso tra il 22 luglio e il 23 agosto, sì. Quindi parliamo di una differenza minima rispetto alle prime, al è primo lo stesso periodo. Adesso sì. Andare a spiegare perché la costellazione è cambiata è lunga, però c'è la precessione degli equinozi che l'ha fatta cambiare. Originariamente la costellazione dove il Sole si trovava in quel periodo era quella del Leone, poi è cambiata. Ecco, questo è un po' per spiegare perché non è più così, ma è un discorso lungo. Ma tanto ti vedo per... molto preparato, sì. E appunto io invece avrei detto molto più banalmente che il segno che domina lo zodiaco è il Leone, che è l'unica, il massimo a cui posso... È un po' diverso, ma comunque è un altro discorso quello. Sì, sì, ed è per questa ragione, proprio perché il periodo è lo stesso, quindi le giornate, sì, di caldo sono massime e quindi il Sol Leone, che nei paesi nordici indica il sole di mezzanotte. E quindi se volete fare un quiz adesso sotto l'ombrellone o in montagna, dovunque voi siate, potete dire questo: Canicola c'entra col cane, tutti vi diranno di no, invece sì. Sol Leone c'entra col leone, tutti vi diranno di no, invece sì. E la risposta è: c'entra con le costellazioni, no? Per capirci così, e sì, non con gli animali in sé, nel vero, sì, senso, sì, della parola. Ed è un quiz di sicuro effetto, perché normalmente siamo portati ad interpretare individuando l'elemento più facile dove non c'è. Invece in questo caso, cioè, siamo portati a scartare quell'ipotesi proprio perché ci sembra troppo facile. Sì, solo che è in riferimento a una cosa diversa, non, sì, all'animale in sé. Andiamo avanti. Ma andando avanti, non so, potremmo parlare della parola tormentone, visto che dall'inizio il dell'estate... Il tormentone dell'estate. Sì, anzi, alla fine, a settembre, nella tua ultima puntata prima della ripresa autunnale, anche se, ahimè, parlare di autunno per la fine di settembre fa un po' impressione, visto il caldo che a volte si protrae, almeno nella città in cui vivo, a Roma, fino alla fine di ottobre, inizi di novembre. Quindi, insomma, alla fine dell'estate potremmo vedere qual è il tormentone 2012 per andarlo ad aggiungere alla lista di tanti tormentoni che si sono succeduti e stratificati negli ultimi 30 anni. Tra poco spiego anche perché 30 anni. Allora, il tormentone. Ogni estate ne ha uno, anzi ne ha più di uno. È un accrescitivo di tormento ottenuto utilizzando il suffisso -one. La parola è moderna, quindi a differenza di quello che è accaduto tante volte nel corso di queste domeniche, dove parole moderne, quando è capitato, insomma, di constatare che parole moderne erano in realtà antiche o comunque erano da retrodatare nel nostro sentire comune, in questo caso è esattamente il contrario. La parola tormentone è una parola recente, più che moderna, recente. La troviamo impiegata nella cronaca giornalistica sicuramente dagli anni 60, anche se gli usi maggiori risalgono agli anni 80 e poi dagli anni 80 in poi. La troviamo nel linguaggio teatrale, nel linguaggio cinematografico, in genere per indicare la battuta tormentone, l'azione tormentone, oppure nella lingua dell'uso. Nella lingua dell'uso è molto probabile che sia arrivata per via di quella ripetizione che ne hanno fatto i giornali. Indica la situazione perdurante, fastidiosa, ripetitiva, assillante, un qualcosa che ritorna, assilla. Nel cabaret il tormentone è la frase, la parola che il cabarettista ripete in continuazione e che lo spettatore si aspetta che venga detta, no? In continuazione, quello è il, sì, tormentone, la chiave poi comica anche di molti cabarettisti di un certo tipo di cabaret. Infatti, dimmi. Non dico, per cui anche poi traslando poi anche nel giornalismo, il tormentone è la notizia che tu ti aspetti comunque di leggere, no? Perché vuoi vedere come sta andando avanti, come andrà a finire. Ogni giorno ti aspetti di avere un tassello in più, no? di quello che è appunto il tormentone dell'estate. Diciamo, sì, che tutto quello che diventa tormentone paga la facilità con cui si imprime e viene richiamato nella mente dei parlanti, con un impoverimento nei termini di capacità di trasmettere contenuti. Quindi, perché il fatto che la parola sia stata ripetuta ad libitum l'ha resa naturalmente molto familiare, no? Alle orecchie dei tanti parlanti, che quindi appunto sanno già cosa devono aspettarsi quando già iniziano, già quando sentono l'inizio della parola stessa. È per questo che poi molte volte il tormentone viene associato con le canzoni, perché basta una parola, basta una nota a volte e parte il riferimento a tutta quanta la canzone, anche allorquando la si abbia in antipatia. Ecco, il tormentone è sancito dal fatto che anche quelli che non lo amano lo conoscono, ma questo conoscere con estrema facilità viene pagato in termini di apporto di conoscenza. Quindi più una parola viene utilizzata, in questo caso una parola viene addirittura ripetuta anche senza fare grande attenzione a quello che è il contenuto, più viene svuotata, finisce per plastificarsi, per tanto per richiamare un argomento che abbiamo già affrontato, quello delle parole di plastica, quelle parole, pensate anche solo a tsunami. Sì. E che finiscono per essere utilizzate in contesti completamente diversi, strani. Sì, in genere attraverso un procedimento metaforico, comunque di estensione, ma questo finisce per portare ad un abuso che fa sì che ci sia uno tsunami anche laddove non ci sia uno tsunami. E non intendo necessariamente uno tsunami in senso materiale, ma anche laddove quello stato di confusione, di stravolgimento che si è venuto a determinare non è poi effettivamente così. E un altro poi caso, fa perdere l'importanza della parola. Esatto, abbiamo stessa. Parlato di tragedia qualche mese fa e abbiamo visto come tragedia, dramma, finiscano poi per non esserlo più, esattamente, no? Nel pensiero, sì, di chi legge, purtroppo. Sì. Io ti lascio invece con una domanda, semplicemente. Ma Sol Leone arriva proprio dal fatto che il Sole è nella costellazione del Leone, quindi nel periodo più caldo dell'estate, oppure arriva semplicemente da Sole con il suffisso di One, per cui un Sole grande, un Sole forte, o sono entrambe le cose? No, ti piace questa domanda? È carina, però morfologicamente non tiene. Ah, ok, vabbè, niente. Cioè, volevo così beccarti in castagno. Hai fatto una paretimologia, hai fatto un'etimologia popolare, però mi permetti di aggiungere un tassello alla, sì, conoscenza della lingua dei tuoi, dei nostri ascoltatori. È il procedimento che hai appena fatto, un'etimologia che non è supportata dalla morfologia, dalla lingua, ma che è supportata dall'intuito e dalle conoscenze del parlante. Ecco, per questo io non sono un glottologo, ma per questo ci sei tu. Ci sentiamo domenica prossima. Grazie, Francesca. Buona domenica. Ciao. È arrivato il momento del nostro gastronauta. Il gastronauta. E oggi con Davide Paurini ci rinfreschiamo, perché d'estate a volte si salta beatamente il pranzo perché sia caldo così e si gusta un gelato, dico bene? Beh, dici bene, ma vorrei averlo qui, una bella cofana di gelati, o le famose carapine di gelati. E poi, ma poi ingrassi, il gelato ingrassa, no? Questo, sai, è il terrore di tutte le ragazze, che fanno tanta fatica a tenersi. Ma sarà così, ma devo dire che c'è il boom del gelato. Meno male. C'è un boom del gelato incredibile da qualche anno. Le gelaterie stanno nascendo come non so cosa. Credo che poche volte ho visto un boom così incredibile di negozi specializzati in qualcosa. Tant'è vero che a Milano addirittura, ma non solo a Milano, in giro per l'Italia vedo delle coppie di gelaterie, addirittura vicino a molte gelaterie immediatamente se ne affianca un'altra. Sì. Io credo che questo sia veramente... E riescono a lavorare tutte, no? Sì. E questa è la cosa interessante. Sì, però credo che, diciamo, chi dà le licenze dovrebbe un po' limitare queste cose. Ma non c'è più quel discorso della distanza, è cambiato. Lo so, tutto, però vedere due gelaterie vicino, magari in una vedere la fila, l'altra vuota, insomma, è abbastanza così, come posso dire. Anche perché, scusami, divago un attimo, ma il concetto è che tu dovresti pagare dei tuoi amici e farli stazionare nella gelateria, perché tu sai che dove vedi più gente dici qua è sicuramente più buono, hai capito? Cioè funziona così. Allora poi, ti insegnerò un trucco. Sì. Ci sono alcune gelaterie in giro per l'Italia dove c'è la fila che rallentano apposta, ecco, vedi? Perché prendono, certo, il mestolo e lentamente fanno in finta modo che di chi mantecare, passa, vede gente e dice qua sarà sicuramente buonissimo, non è così. Però purtroppo ci sono delle gelaterie che addirittura le vedi vuote, probabilmente lì il meccanismo non funziona. No, devo dire che c'è il boom del gelato, perché i dati sono incredibili, mi sembra di aver letto che sono 37.000 le gelaterie in Italia, con una crescita annuale davvero molto ma molto importante. Si vede che la crisi non tocca il gelato. Forse nessuno vuole rifiutarsi un gelato. Tu dici appunto che ingrassa. Boh, io dubito, perché un mio amico dietologo nutrizionista diceva che se tu puoi fare anche un pranzo mangiando gelato, però devi aggiungere della frutta, è un pranzo completo, quindi a meno che uno non si mangi una cofana da mezzo chilo. No, io dicevo scherzando, perché sai, no, è là il gelato che contiene la panna, gli zuccheri, ma va benissimo, perché no, regaliamoci. Sì, ma regaliamoci in una giornata di sofferenza almeno un gelato. Ora poi ci sono tantissime specialità incredibili. Ecco, vanno di moda i gelati con lo stecco. Sì, siamo tornati sempre anche qui. Freschi, sì, cioè, ne sono, sì, appena, sì, fatti, ma con lo stecco. Quelli che vengono inzuppati. Sì, se vuoi inzuppati oppure no, però sono preparati in quel modo. È un ritorno al passato, anche questo. Il vecchio ghiacciolo. Il vecchio ghiacciolo, ma anche il vecchio moretto, quello, sì, che veniva, buono, veniva, certo, diciamo, messo nella cofana con il cioccolato sciolto. Vaniglia con il coperto di cioccolato. Sì. Devo dire che ultimamente, a proposito di stecco, una piccola azienda che serve a mezzogiorno via online, diciamo, i pasti, sì. E ho visto delle cose interessanti, ho visto lo stecco di polenta e baccalà, ho visto lo stecco di verdure. Ah, quindi non solo freddo, ma anche, no, proprio, diciamo, di altre cose. Altre, sì, cose, perché è l'utilità nel mangiare. Beh, come dicevamo, c'è un ritorno al passato e lo stecco era un ritorno. Io ricordo benissimo che i miei primi gelati sicuramente li ho mangiati con lo stecco, quindi in una gelateria la voglio ricordare, in un paese in provincia di Forlì che si chiama Galeata, che si chiama Basport, tanto per cambiare, non era quello di Benny, del famoso stupendo libro Basport, a cui credo di averlo letto 10 volte perché mi medesimavo molto, specialmente su alcune pagine di quel libro. Quindi devo dire che in questa gelateria c'erano gelati straordinari, ma fatti con le uova. Io vedevo quando facevo la crema con le uova e metteva la scorza di limone per fare la crema. Piuttosto, poi purtroppo, l'ultima volta che sono passato è stato chiuso. E quindi questo succede, e se avesse aspettato un po', forse questo ritorno al passato gli avrebbe permesso di continuare. Gelati straordinari che non ho più mangiato. Crema appunto con la scorza di olive, stracciatella, che poi è diventato, e nocciola. Erano 3 specialità perché io sono per, diciamo, i gelati, quelli tradizionali. Sì, e l'abbinamento limone-cioccolato, per esempio? Beh, limone-cioccolato, forse più menta-cioccolato. Più, sì, menta-cioccolato. Che ricorda l'After Eight, no? Esattamente, ecco, sì. Ma molti ci sono di questi abbinamenti che sono nati. Limone-cioccolato, io amo andare sul tradizionale. Io, diciamo, che il mio parametro è la nocciola. Sì. Io giudico i ristoranti, sì, le gelaterie, i gelatai, chiamiamoli gelatieri, perché sì, gelatai, gelatieri, sì, gelatieri, dalla nocciola. Anche se un vecchio gelatiere bravissimo di un paesino sperduto del Trentino, che addirittura faceva un pasto a base di gelato, perché partiva dal prosciutto e finiva al foie gras. Quello mi piace, quindi, diciamo, il pasto a base di gelato. Era tutto a base di gelato, veramente incredibile. Questo signore si chiamava, mi sembra, non Pederzolli, ora mi verrà in mente, ma devo dire che lui faceva appunto un pranzo completo, e si arrivava due antipasti, un primo, un secondo e un dessert. Il dessert era sempre a base di mela, mi ricordo. Io un paio di volte mi sono sottoposto a questo tour de force, perché lui era veramente così carino e mi obbligava, dice, devi mangiare tutto, quindi mangiavo tutto. Ricordo ancora il foie gras e il petto d'oca, addirittura affumicato, quindi una roba incredibile. Forse probabilmente oggi non funzionerebbe più, perché oggi ci sono anche dei gusti molto particolari. Odio un gusto. Ecco, lo devo questo dire. Lo stavo per chiedere. Il puffo. Ma no. stavo dicendo. Ma il puffo non è un gusto. Però ormai. Perché i puffi non sanno di niente. So. Cioè, non credo che abbiano un gusto. Ho mai visto i puffi cannibali, però, che si mangiano tra loro per capire che gusto abbiano. Non puoi negare che è diventato con quei colori incredibili. Ma scusa, adesso non voglio dire. Perché è blu? Sì. Chiamalo anice, se proprio vuoi dare un che gusto ha il puffo? Scusa, io non l'ho mai assaggiato. Neppure io, però già mi inorridisce vederlo. Ma puffo, e allora, i puffi sono degli gnomi, ok, anche carini così. Come fai a pensare di chiamare un gelato con un nome di qualcosa di vivente? Perché pensaci, il puffo è qualcosa di vivente, anche se è un cartone, però è vivente. E quindi, non so, ti dà veramente l'idea di mangiare un pezzo di, non so, quella roba che psicologicamente dà fastidio a me, personalmente. Senti, ti devo raccontare allora una bella storia. Tanti anni fa, in trasmissione, mi chiamò un gelatiere pugliese e mi disse: io ho fatto il gusto del gastronauta in suo onore. Appunto. Allora, no. Dopo anni io capito, mi viene in mente, sono di passaggio in questo paese in Puglia, e mi viene in mente questa gelateria. E ti sei assaggiato? Serafino. No, sono andato e in incognito. Certo. Per fortuna non c'era il proprietario, che forse mi conosceva. Sì. Gli ho detto: vorrei il gusto al gastronauta. No, ma ora non lo facciamo più, ora non lo facciamo più. Allora gli ho detto: vabbè, ma raccontatemi com'era questo gusto. Certo. Era al Rocher. Fatto, cosa c'entrava con me non lo so, non lo però so. Lui era un po' il discorso come il avrei una ciliegia in testa. Quindi eliminiamo il pufo, ma sì, eliminiamo anche tutto quel pistacchio che ha colore verde. Il pistacchio non è verde. Non è verde, non so. È addirittura marroncino e anche marroncino chiaro. Anche l'anice non è blu, scusami, è trasparente. Allora togliamo tutte quelle gelaterie dove entri e ti sembra di entrare in una cartella colori. Ma sono così belli. Belle queste, ma poi vedi queste montagne colorate, no? Ti sembra di essere in montagna, sali, scendi in montagna. Allora, un altro modo di mangiare e gustare il gelato è al lago, l'ho visto a Peschiera del Garda, ci sarà penso anche da altre parti. Allora, queste gelaterie che usano rigorosamente latte della zona. Sì, latte fresco. E sono tutte self-service, tu prendi la coppa o il cono e poi ti versi tu i gelati alla, tra virgolette, alla Carpigiani, nel senso che c'è. Come sono quei gelati? Bah, sai, devo dire che bisogna vedere che materie prime usano. Sì. Perché se usano materie prime... Al di là della macchina. Al di là della macchina. Se, okay, se usano latte fresco. Sì, quello di qualità, è certificato, diciamo. Se ad esempio sulla frutta usano frutta fresca, se sulla nocciola usano appunto, diciamo, non i preparati o d'altro, ma usano, diciamo, materie prime di grande qualità, sì, sicuramente non c'è, come posso dire, l'atmosfera, l'emozione di veder tirar fuori dalla sorbettiera il gelato. Sì. Io dico sempre, faccio un parallelo che c'entra poco, però forse si può capire. Il bollito, se io non lo vedo dal carrello che mi esce fuori e me lo taglia e mi viene già porzionato, secondo me non è la stessa cosa. E così secondo me è il gelato. Ecco, ma una domanda, quelle macchine, no, che producono il gelato, nel senso che tu tiri la leva, sì, ed escono, riescono a lavorare gli ingredienti come le macchine normali che usano i gelatieri o no? O ci vogliono i preparati per forza? Lì volevo arrivare. Lì sicuramente non è dentro, i contenuti non sono gli stessi. Perché non sono gli stessi. Non potrebbe funzionare. Anche però, secondo me, però non però lo so. Però se c'è il rispetto della materia prima, sicuramente, perché oggi ci sono anche delle lavorazioni di gelato fatto da alcune aziende sicuramente eccellenti, quindi non è più come un tempo. Ci sono aziende che producono già la granella di nocciola ben fatta, perché è materia prima di grande, sì, qualità. Secondo me bisogna sempre partire dall'origine della materia. E questo è importante. Certo che un gelato di frutta fatto con la frutta fresca rispetto a un gelato di frutta fatto con la frutta che si è congelata e poi si tira fuori l'altro momento, c'è una variazione, così pure tutto il cibo, anche anche nella preparazione di un piatto, ci sono le differenze. Però, come dico, tutto sta nella materia prima. E l'ultimissima cosa, poi dobbiamo chiudere, il prezzo giusto per un gelato artigianale. Ma guarda, io ho visto ultimamente variazioni da 18 a 23 al chilo. Anzi a 26, ci sono delle esagerazioni, per quello te lo chiedevo. Togliendo le punte, tra 26 e 18 secondo me a 20 forse diciamo che abbiamo il prezzo giusto. Ok, il prezzo giusto. Grazie, ciao Davide, a domenica prossima. Nell'edizione estiva del Riposo del Guerriero c'è il nostro angolo dedicato ai viaggi e oggi ci spostiamo in una regione molto frequentata, molto ambita. Moltissimi ascoltatori sono sicuro che in questo momento siano sulle coste della Puglia e allora abbiamo preso come spunto il libro Newton Compton, 101 cose da fare in Puglia almeno una volta nella vita. Non ce le racconterà tutte 101, ma qualcuna sì. Rossano Astremo, buona domenica. Buona domenica a tutti. Allora Rossano, che cosa possiamo, in Puglia sono un sacco di cose da fare, da vedere, un luogo straordinario dove stare, e non soltanto in vacanza ma anche a vivere. E allora, sia per i pugliesi sia invece per chi fosse lì in villeggiatura, che cosa possiamo consigliare fra questi 101 posti? Diciamo che potremmo consigliare alcune cose, non tra quelle tipiche che magari consigliano tutti usualmente. Infatti l'obiettivo della mia guida era anche quello di cercare di fare un itinerario tipico nella nostra città. Scopriamo dell'altro, ecco. Sì, sì, magari potrebbe essere interessante, ad esempio per gli amanti dell'arte, recarsi alla Pinacoteca Giuseppe De Nittis di Barletta, che praticamente si trova all'interno di un palazzo storico, che è il Palazzo della Marra, che è una praticamente fa riferimento a una famiglia, diciamo, di grande tradizione di Barletta, e lì all'interno della Pinacoteca Giuseppe De Nittis si trovano alcune delle opere più interessanti di questo artista che tanto lustro ha dato alla nostra Puglia, che ha vissuto nella Parigi degli impressionisti, e quindi sicuramente trascorrere una giornata dedicata all'arte all'interno della Pinacoteca può essere, diciamo, un'ottima cosa per chi visita la nostra regione per la prima volta, ma anche magari per gli abitanti della nostra regione che ancora non hanno avuto l'occasione di frequentarla e di visitare la Pinacoteca. Ecco, anche perché sai, chi va in villeggiatura da quelle parti normalmente le sue giornate le passa in spiaggia, ecco, senza pensare, certo, che ci sono altri posti dove andare. Mi annoio, per esempio, a morire, quindi andrei subito a cercare un posto così. Però, insomma... sicuramente, no, sicuramente le spiagge meritano, dal Gargano al Salento, non devo essere io a dirlo, ci sono delle spiagge tra le più interessanti e più belle della Puglia. Però sicuramente magari abbinare alla giornata in spiaggia, magari un pomeriggio dedicato all'arte. Ecco, ci vorrebbe, quindi fatelo. E però diciamo anche ai pugliesi che spesso, ma come tutti, non conosciamo mai abbastanza la regione dove viviamo, neanche la città. Allora andiamo avanti, cos'altro ci fai scoprire? E poi per esempio, se invece amate i dolci, una possibilità potrebbe essere, se vi trovate a Lecce dintorni, mangiare il tipico pasticciotto lecceca, che è praticamente un dolce, un piccolo dolce fatto di pasta frolla e crema pasticcera, che è molto semplice ma estremamente appetitoso, e sicuramente per gli abitanti di Lecce una degli itinerari preferiti è quello di fare colazione presso uno storico bar che è il Caffè al Vino, che si trova in piazza Sant'Oronzo, che fa uno dei pasticciotti più buoni del Salento. Quindi magari se i turisti che si trovano in Puglia passano da Lecce, sicuramente una tappa obbligata può essere quella di passare al Caffè al Vino e mangiare questo storico pasticciotto. Si trova in piazza Sant'Oronzo, quindi una delle piazze principali delle città. Ecco, poi una bella nuotata tutto il pomeriggio per smaltire, certo, il pasticciotto. In effetti sì, perché è una bomba, magari abbinata al caffè con latte di mandorle, che è un'altra delle specialità salentine, sicuramente come quantità di zuccheri andiamo ben oltre, diciamo, la norma, però come si sa, non si può non fare, ma certo bisogna assolutamente farlo. Allora abbiamo visitato una Pinacoteca, abbiamo visitato anzi una pasticceria, un bar pasticceria, e adesso cosa facciamo per chiudere? Allora, per chiudere potrei anche, dopo diciamo il dolce, potrei anche consigliare un'altra perlipatezza tipicamente pugliese, che è il primitivo di Manduria. Quindi una possibilità potrebbe essere magari recarsi presso il Consorzio Produttori Vini di Manduria, laddove praticamente che è stato, diciamo, il primo consorzio vitivinicolo pugliese, laddove si produce uno dei migliori primitivi della nostra regione. Quindi sicuramente tornare magari nella propria casa con un po' di vino di un buon primitivo, sia diciamo, dolce per gli amanti, diciamo, del vino dolce, oppure diciamo un primitivo da abbinare a primi e secondi di carne, sicuramente può essere un'ottima idea. E poi portarvi qualche... è la patria del primitivo pugliese, quindi e poi anche lì comunque ci troviamo in una zona molto vicina a uno dei migliori mari, diciamo, pugliese, quindi potrebbe essere di passaggio per chi si trova nella zona di Brindisi e Taranto. Ecco, quindi insomma un buon modo anche per portarsi qualche ricordo che non sia, certo, un souvenir, certo, ma una bella bottiglia da portarsi poi a casa al ritorno. Rossano Astremo, grazie. 101 cose da fare e a questo punto da mangiare e da bere in Puglia almeno una volta nella vita. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Ecco, è vero, si sta nelle regioni dove c'è il mare e in quelle dove c'è la montagna, i laghi, però si resta anche in città. Abbiamo preso allora come esempio una città sicuramente molto importante in Italia, però non tanto conosciuta da un punto di vista turistico. Se ne parla sempre per il lavoro, per la moda, indubbiamente, per il terziario, ma non se ne parla mai abbastanza da un punto di vista turistico, sempre che sia una città che non abbia niente da offrire, invece ha moltissime cose da offrire. Ce le racconta Gianluca Margheriti, che è fotografo e scrittore, con 101 tesori nascosti di Milano da vedere a me una volta nella vita, e aggiungo, e che i milanesi neanche conoscono. Dico bene, Gianluca? Esatto. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Allora, da cosa cominciamo? Ce ne sono tanti, però insomma citiamone qualcuno, va? Allora, sono tantissimi. Secondo me è una cosa molto particolare che sono andato a ricercare per questo libro, è un percorso strutturato intorno ai tesori del design. Sì. Milano è una città all'avanguardia nel campo del design, così come in quello della moda, questo lo sanno tutti. Quello che però non sanno molte persone è che si nascondono a Milano tanti musei legati al design e alla storia del design. Ad esempio ci sono degli studi musei dei più grandi designer italiani, c'è lo studio museo di Achille Castiglioni, quello di Vico Magistretti, quello di Franco Albini, quindi si può andare a conoscere i designer attraverso i loro progetti, attraverso i loro scritti, attraverso le loro creazioni più importanti. Altrettanto interessante ad esempio è il museo dello scooter e della Lambretta che si trova a Milano, che è considerato il più importante museo del mondo per quanto riguarda scooter e Lambretta. Ecco, curioso come nessuno mai sappia, no? Che l'esistenza di questi posti dove andare. Esatto, tra l'altro. Esatto. O già un po' più conosciuto, ad esempio, invece ad Arese c'è il museo dell'Alfa Romeo, dove si può ripercorrere la storia del design dell'automobile attraverso dei pezzi che sono tra i più importanti di tutto il mondo, probabilmente. Ecco, se non volessimo chiuderci in un museo o in uno studio, cosa possiamo andare a vedere? Allora, un'altra cosa interessante che ho scoperto di Milano, che non si trova su tutte le guide turistiche, escludendo ovviamente i grandi monumenti che tutti possono conoscere, certo, è il passato legato alla storia di Roma. Milano è stata per anni la capitale dell'impero romano. Al tempo dell'imperatore Massimiano è diventata la capitale dell'intero impero romano e quindi in quegli anni fu una città di straordinaria bellezza. Poi Milano ha avuto vicende travagliate, nel senso che l'arrivo del Barbarossa e altre guerre l'hanno in buona parte distrutta, quindi non ha conservato molte tracce, ma alcune tracce sono rimaste. Quindi ad esempio c'è un parco dove si possono trovare le tracce di quello che era l'anfiteatro della Milano romana, un anfiteatro che era grande quanto il Colosseo. In quale parco siamo? È il parco dell'anfiteatro, si chiama così, è molto vicino al centro, è in via De Amicis. E per terra si vedono ancora le tracce di quello che era l'alzato dell'antico anfiteatro romano. Poi dove, che cosa andiamo a scoprire ancora? Allo stesso modo, ad esempio, si può andare a visitare i resti del teatro romano, invece, che sono abbastanza vicino a questo. E forse questo lo conoscono tutti, uno dei resti più importanti della Milano romana sono le colonne che si trovano in San Lorenzo. Sì, le colonne di San Lorenzo, ma è un posto di ritrovo, e sicuramente quello lo sanno tutti, infatti è un posto. Esatto. Anche, però insomma, di Amicis è proprio lì, è vicina, attaccata, ed è per cui da lì vicino, potete infatti, partire per andare a fare tutto. Al centro della Milano romana. Esatto, e fare tutto questo percorso per visitare la Milano romana. Ti do ancora un minuto e mezzo per così raccontarci un altro luogo curioso e segreto, forse da scoprire. Allora, un'altra cosa abbastanza interessante sono i musei legati alla storia dell'arte che ci sono e che sono poco conosciuti. Milano ha alcuni dei musei più importanti d'Italia, come l'Ambrosiana, come la Pinacoteca di Brera, che tutti conoscono, tutti sono stati a visitare. Però ci sono una miriade di piccolissimi musei dove sono conservate delle opere altrettanto importanti. Mi viene in mente, ad esempio, il Museo dei Cappuccini, che è un museo privato fondato dai Cappuccini con le donazioni che sono state fatte al loro ordine e che sono, dove sono esposte questi quadri incredibili. C'è ad esempio il museo dedicato al fumetto, che è un'altra istituzione abbastanza particolare, è aperta da poco, esiste solamente da un anno e mezzo, e è un museo interamente dedicato alla storia del fumetto, dove sono esposte tavole originali, sono esposte albi da collezione e dove c'è anche una vastissima biblioteca che si può consultare e visitare. Ecco, quindi insomma ci sono molti tesori nascosti a Milano, molti musei che tanti non conoscono, da andare a scoprire. Lo dico anche per i milanesi che per qualche ragione sono costretti a stare nella città o che magari hanno fatto le vacanze in un periodo diverso e che possono trascorrere qualche ora della loro giornata per andare a riscoprire proprio la loro città. Grazie ancora Gianluca Margheriti, buona domenica. E vi ripeto, 101 tesori nascosti di Milano da vedere almeno una volta nella vita. Ultimi prima parte del Riposo del Guerriero in versione estiva, sempre con il nostro astrologo Antonio Capitani. Ciao Antonio, buona domenica. Buona domenica a te. A per parlare di chi l'astrologia l'ha sempre apprezzata, personaggi insomma che hanno rappresentato molto nel nostro passato nel loro presente, certo. Diciamo così. Ma i più, ecco, si potrebbe pensare così, avessero una preferenza per l'astrologia, invece era così, è stato era così. Così, era così, guarda, già addirittura Virgilio nelle Georgiche dice: se volgessi lo sguardo al sole veloce e dalle stelle che tengo indietro per ordine, non mai il domani ti ingannerà, né sarai preso dalle insidie di una notte serena. Quindi è già evidente come negli uomini di cultura, di dell'arte, ma anche delle scienze, come vedremo dopo, come appunto questa disciplina così seducente abbia proprio esercitato il proprio fascino, perché insomma chi si occupa di astrologia, permettimi, forse è un tantino avanti, io credo. E non posso dire niente. Mi veniva anche da pensare una cosa, che noi quotidianamente usiamo una parola legata proprio all'astrologia senza renderci conto, cioè quando non stiamo bene si dice avere l'influenza, no? Sì. E sarebbe l'influenza dei pianeti, che sì, non è anche buona, e sì, quindi uno sta male. Cioè l'avere l'influenza deriva da lì, è proprio un termine astrologico. Ma si dice anche avere ascendente sugli altri. Gli altri, no? Esatto. Quindi, ce ne sono. Ma se tu pensi, per esempio, anche questa è un'altra curiosità, Maria Callas, sì, che insomma non mi sembra proprio no, l'ultima gonza no, no, arrivata, addirittura ogni giorno lei faceva comprare i quotidiani italiani e inglesi, li sfogliava solo per leggere l'oroscopo, poi li buttava tutti via. Quindi, oddio, forse questa magari era una mania un po' compulsiva. Ecco, forse ecco, troppo, certo. Ecco, ti si potrebbe rispondere, ma era un artista. Se quando tu dici che qualcuno è un artista, è lecito tutto, è lecito, no? La stramberia. Come se gli artisti fossero tutti strami, ma non è così. Questa però, mi sembra un atto di luoghi comuni. Bravo, però esiste, regge anche quello. Sì, anche, quindi vabbè, ma posso citare Goethe, per esempio, altro personaggio insomma che era che dava del tu all'antica scienza delle stelle. Anche Fosco Maraini, il papà di Dacia Maraini, che era un uomo di cultura straordinario, racconta di quando lui era uno scorpione, sì, quindi si vantava di questo, e una volta per sedurre una signora nel suo albergo accorse alle grida di questa signora perché era entrato uno scorpione nella camera di colei che invocava un vero scorpione, e lui, per far vedere quanto era bravo, schiacciò lo scorpione, fece le proprie avanze alla signora pensando di riscuotere una ricompensa, ma fu cacciato fuori dalla stanza. E lui disse: uno scorpione vero era stato ucciso, l'altro zodiacale fermamente disciplinato. Quindi l'ho trovato un aneddoto abbastanza carino, anche perché poi la stessa Dacia Maraini, sì, più tardi ebbe a scrivere che il gioco delle parti è stampato nella geografia del cielo, fisso come una costellazione, niente, nessuno può cambiarlo. Quindi faccio l'esempio ancora di uomini, insomma, sarà stata anche, beh, un artista non direi Dacia Maraini, però una donna di cultura, quindi non la si può certo accusare di stramberia. Pertanto, se persone di questa levatura culturale comunque hanno considerato la possibilità, quantomeno, come no, che certo, qualcosa che possa qualcosa esserci. Ma no? Come no? Ma se tu pensi che lo stesso Johannes Keplero, che è stato uno dei più grandi astronomi della storia, lui campava facendo gli oroscopi, e lui era solito affermare, perché lui contemporaneamente all'astrologia portava avanti gli studi di astronomia, e diceva che importa se la madre, ovvero l'astrologia, si prostituisce, se poi la figlia può crescere sana e virtuosa. Lo stesso Galileo Galilei ha redatto nel suo soggiorno padovano 40 oroscopi che sono conservati, se non ricordo male addirittura gli Uffizi, in Nulla astrologica di Galileo, 40 oroscopi fra i quali sono annoverati anche quelli delle figlie. Quindi, come vedi, Galileo non mi sembra anche lì l'ultimo arrivato. Tra l'altro, quindi subito viene a pensare alla scienza, no? E come quindi no? Lì certo, ci stacchiamo completamente da astrologia e astronomia, no? Anche però, come dici tu, la madre è stata l'astrologia. La madre, insomma, è stata l'astrologia, certo, per un po' di tempo hanno marciato insieme, di pari passo, di poi dopodiché. Ma ti potrei citare, non so, anche l'Emir Zola, studioso di miti, tradizioni e religiosi, e religioni, chi desideri compenetrarsi in una civiltà osservi come essa cadenza l'anno, ne studi lo zodiaco. Quindi mi pare Ecco, tra l'altro, curiosamente, nel passato l'oroscopo non si faceva e non si interpretava alle persone comuni, ma si interpretava semplicemente ai reggenti, no? Perché dalla loro, poi dalla loro fortuna o meno, sarebbe certo. dipesa poi la fortuna o meno dei sudditi. Il destino dei capi era il destino dei popoli, no? Esatto, quindi certo, sì. Beh, insomma, se tu pensi che addirittura, se non ricordo male, Papa Giulio II fece decidere a un pool, oggi si direbbe, di astrologi dell'epoca, la data migliore per la sua incoronazione. Quindi pare che anche i risultati, insomma, fossero stati piuttosto apprezzabili. Quindi vedi che c'è l'uomo di scienza, l'uomo di chiesa, di chiesa, il letterato, l'artista. Tutti hanno comunque sempre rivolto lo sguardo al cielo, ma lo stesso Newton, lo stesso Boyle erano tutti orientati allo studio di discipline non solo astrologiche ma anche esoteriche. Boyle, per esempio, anche Newton erano dei massoni, quindi c'è sempre stato questo fascino del mistero che loro hanno subito, ma subito non in maniera acritica, perché hanno studiato, hanno approfondito la materia e sono andati comunque a fondo delle questioni. Quindi trovo veramente sciocco che ancora oggi si contesti la validità della disciplina astrologica. Ecco, forse un po' si può contestare, o comunque cerchiamo di far capire quello che è l'oroscopo della quotidianità, no? Sì. Che a volte si contraddice, leggi l'oroscopo da una parte che si contraddice completamente l'oroscopo da un'altra parte. Sì. Perché diciamo che anche lì c'è molta differenza, perché c'è differenza, dipende da chi lo scrive. Dipende ecco. da chi lo scrive, dipende dai criteri che ognuno di noi adotta nel redigere le proprie previsioni. Certamente lì si tratta solo di indicazioni di massima, qui stiamo parlando invece, quando parlavamo, non so, degli oroscopi di Kepler e di Galileo, erano oroscopi centrati sulla persona. Quando parliamo invece degli oroscopi che appunto dicevi tu, quelli letti su un giornale che poi differiscono da quelli letti sì, su che un sono altro quelli giornale, della quotidianità sono quelli no? della ecco. quotidianità, sono per forza di cose un insieme di indicazioni generiche. È vero che è stato un periodo dove a volte gli oroscopi erano scritti non da astrologi ma da redattori che semplicemente si inventavano delle frasi o li scopiazzavano qua a destra e a sinistra, quindi, senza badare al giorno, poi no. cioè, a caso li scrivevano. Ecco. Io addirittura ero abbonato tanti anni fa a uno di questi siti che inviavano l'oroscopo gratis. Sì, loro, così lo copiavi tu. No, perché loro non sapevano che appunto non sapevo che io mi intendessi della materia. Certo. Io un giorno sapevo che c'era la luna nel mio segno, nel fianco, ma arriva la luna dello scorpione oggi. Sorry, non è vero. Come la luna dello scorpione? Io sarà un errore. Il secondo giorno, di nuovo, dico siete una massa di cialtroni. Ma hai fatto pensare alla precessione degli equinozi, ma non la spieghiamo, no, è troppo complicato, no. Ma chiunque ecco, dovesse dirvi, ah ma adesso non è più comune una volta, voi cambiate argomento. No, appunto, ecco, cambiate perché insomma c'è una spiegazione. Vuol dire non capire, cioè non sapere proprio non sapere, la storia da dove nasce. Perché, certo, sì, sì. Guarda, volevo solo citare anche sì. Italo Calvino, per esempio, che nelle sue Lezioni americane, che sono, devo dire, una lettura non semplice ma godibile, dichiara di rimpiangere il fatto di essere fortemente caratterizzato dal faticoso Saturno, mentre ammira il dinamismo mercuriano, la sua levità e leggerezza. Quindi dimostra anche di conoscere bene l'astrologia. Sì. Italo Calvino, che anche lì, insomma, non mi sembra l'ultimo arrivato. Ecco. Direi di no. E potrei citarti tante altre. Vai, gli do ancora un Posso? Minuto per sì. la citazione. Allora, come no? Quindi Giulio II abbiamo già parlato. E, c'era anche l'oroscopo di Keplero sì. che fu redatto per il conte di Wallenstein, che ebbe regolarmente a morire in battaglia secondo le previsioni del famoso scienziato. Ecco, nessuno, quindi, ecco vorrei che nessuno più, ecco, a quei tempi ci si poteva anche permettere, questo veniva anche chiesto. Come no, adesso oggi no, vorrei cose, più no, ecco, no, certo che no. Però anche i regnanti, qualcuno c'è forse che lo fa, purtroppo sì, soprattutto quelli che ti dicono che se per il compleanno non ti sposti tutte le disgrazie del mondo ti arrivano, ma stiamo fermi lì. Ecco. Assolutamente sì. Capitani, mio capitani, il sito di Antonio Capitani, se volete avere più informazioni, guardare, leggere, scoprire. E poi invece per quanto riguarda il riposo del guerriero ci sentiamo domenica prossima puntuali alle 10. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, grazie a Pietro Lacorte in regia e a voi. Buona settimana da Stefano Gallarini.